Buonasera, buonasera, ben ritrovati a questa nuova puntata dopo un paio di settimane di assenza di Mighty FM, che vi parla sempre Claudia Mighty Mau dagli studi di registrazione, per la prima volta la registrazione di diretta differita, sì, perché stasera saremo al Covo, oggi venerdì 19 aprile, data unica italiana di Frankie Cosmos, quindi abbiamo deciso di registrare prima, ma non potevamo evitare, anche perché ci sta suonando nelle orecchie da settimane, di fare la nostra puntatona su Wise Blood, ovvero Natalie Mehring, classe 1988, americana, che ha pubblicato il 5 aprile per la Sub Pop, quindi insomma prima pubblicazione per un'etichetta insomma ancora più prestigiosa, il suo quarto album ufficiale dal titolo Titanic Rising. Ne parleremo moltissimo in questa puntata molto molto densa di ascolti e di parole, che parte come sempre con l'ascolto del pezzo di apertura del disco A Lot's Gonna Change, Wise Blood. If I could go back to a time before now, before I ever fell down, go back to a time when I was just a girl, when I had Gonna Change, pezzo d'apertura di questo bellissimo album, un pezzo che è come una lettera a se stessa, bambina, infatti inizia dicendo: se potessi tornare ad un tempo prima di adesso, prima di crescere, quindi conoscere cos'è la sofferenza, a differenza invece di un'epoca di innocenza in cui appunto si vede tutto insomma in modo molto più ottimista, grazie anche al potere evocativo del cinema, dei film, che un po' ti dipingono la vita diversa da quello che è. Questo è uno dei temi di questo album, Titanic Rising. Infatti il Titanic del titolo è proprio quello del film, e ovviamente insomma della tragedia da cui prese ispirazione. Come dicevamo, Natalie Mehring, 11 giugno 88, nata a Santa Monica, ma all'età di 10 anni la famiglia si trasferisce a Doylestown, Pennsylvania, quindi insomma, poco sopra Filadelfia, diciamo, l'estremo est dello stato della Pennsylvania, un borgo antico poi progressivamente inglobato dalla città da una famiglia di musicisti cristiani. Let me change my words. Show me. Che lei stessa, appunto, in un'intervista definisce super born again pentecostal Christians, e avrete sicuramente riconosciuto un pezzo invece caro alla mia infanzia, ai miei 9-10 anni. Qui possiedo il 45 giri Woman Double Fantasy 1980, l'ultimo album di John Lennon, perché appunto ci sono dei passaggi melodici in Lost Gonna Change che proprio ti invitano ad attaccarci. Woman, infatti, diverse recensioni hanno appunto fatto riferimento al fatto che sì, sembra una classica ballata lennoniana, come tanti altri pezzi prendono dai Beatles, dal gruppo più grande della storia della recording music. Dicevamo, genitori musicisti cristiani, e lei in un'intervista dice: mio padre era veramente, cioè, un musicista professionista alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, stava in un gruppo che aveva firmato anche per l'Elektra, suonava il Whisky a Gogo, faceva una specie di New Wave che era un mix tra Bruce Springsteen e Weather Report. Poi è diventato cristiano, si è sposato, ha messo su famiglia e ha messo da parte la musica perché non era più il suo interesse principale. Mia madre ha sempre scritto canzoni, ma non ha registrato il suo primo album fino a quando non è arrivata a cinquantina d'anni e aveva il tempo e i soldi per farlo, e se l'è finanziato da sola. E dell'infanzia, appunto, dice: ci siamo stati allevati pretty sheltered, quindi un po' isolati, un po' protetti. Infatti in un'altra intervista dice: ci sono voluti 13 anni alla mia famiglia per fare amicizia con la gente del posto dove sono andata a vivere. E il padre, appunto, molto cristiano, guidava le preghiere di questa chiesa pentecostale. Dice: sapevo che suonava la chitarra e c'era un pianoforte a casa, e tutti suonavano il pianoforte, ma poi c'è stata una sera in cui mio padre ha tirato fuori la chitarra elettrica, ci ha messo tutti seduti e ha cominciato a suonare secular rock songs, cioè canzoni laiche, e ha cominciato, insomma, a raccontare il suo passato. E quindi io non sapevo fino a quel momento che fosse un musicista rock semifamoso, e ci ha raccontato tutte queste storie, che era uscito con Joni Mitchell, con Angelica Houston, ha fatto tutte queste cose da rockstar. Io mi ricordo che ero una ragazzina, avevo circa 8 anni, sono rimasta a bocca aperta, e questo è come se avesse piantato un seme in me. Perché ho pensato: cavolo, lui l'ha fatto, ma poi ha voluto mettere su famiglia, mentre magari io invece potrei andare fino in fondo e diventare una musicista. la piccola Natalie, infatti, a 15 anni nella sua cameretta comincia a suonare, comincia anche ad inventare, a creare degli strumenti, un po' per sfuggire alla scena hardcore della sua zona. Insomma, erano gli anni in cui lei dice nessuno voleva suonare con me, o dovevo suonare il basso in queste band di grindcore, di screamo core, poi nessuno voleva suonare con me. Quindi a 15 anni prende lo pseudonimo di Wise Blood, quindi sangue saggio, però scritto non W-I-S-E ma W-I-S, questo concetto di occhio che fa riferimento, insomma, all'interiorità, allo scrutarsi dentro, anche a una profondità, è anche un punto, un'espressione, diciamo, di stranezza della giovane Natalie, che prende appunto il nome dal romanzo di Flannery O'Connor del 52, Wise Blood, tradotto in italiano con La saggezza nel sangue. Questo significa che a 15 anni lei aveva già letto questo libro, che è veramente assurdo, che giustamente l'ha flashata per la vita, e ci credo, perché appunto non ho mai letto trama più assurda. E comincia appunto a fare musica e a ribellarsi, insomma, contro Dio e la famiglia. D'altra parte, appunto, è un romanzo antireligioso, Wise Blood. E comincia ad interessarsi per la filosofia esoterica orientale. E però questa, diciamo, infanzia cristiana l'ha, come predisposta ad uno stile di vita più spirituale. Quindi poi c'è stato un allontanamento, non una rottura totale, però insomma un allontanamento anche fisico. Intorno ai forse 17-18 anni se ne scappa a Portland, in Oregon, dove comincia ad entrare nella scena noise sperimentale, e riguarda appunto all'imprinting, insomma, un po' religioso. Dice che, insomma, i genitori non erano certo liberali, ma erano dei cristiani un po' hippie che predicavano l'amore, la cura per gli altri, la compassione ed empatia. Lei appunto in un'intervista dice: mi sono resa conto anch'io, insomma, alla fine, che Gesù fondamentalmente un tipo molto zen, quindi resta simpatico. E invece lei appunto comincia a suonare con questi collettivi freak rock come il Jackie O Motherfucker o con Nautical Almanac, e poi avvia una attività solista nel 2006, dove cambia ancora nome, dove sì, Wise è scritto sempre W occhi, ma Blood viene scritto B-L-U-H-D, pubblicando fondamentalmente delle cassette a tiratura limitata. Esattamente come fa suo fratello maggiore Zach Mehring, che ha fondato un'etichetta, la Gang TV Recordings, e che pubblica quindi i suoi lavori sotto il nome di Raw Thrills, lavori a cui spesso Natalie partecipa, ed infatti stiamo ascoltando un pezzo di Raw Thrills, Where, che appunto vede la voce di Natalie, un pezzo del 2010, in un lavoro dal titolo So Post. E se vi siete chiesti cos'era invece quel pezzo un po' molto sperimentale e abbastanza inquietante che abbiamo sentito prima, è appunto una di queste pubblicazioni su cassetta, Strange Chalices of Seeing del 2007, era appunto uno dei primi pezzi della carriera musicale di Wise Blood, dal titolo Ballad of the Broken Skull, mentre siamo ritornati al presente con Titanic Rising e con il primo pezzo che è stato diffuso all'annuncio della pubblicazione del disco, era gennaio, e questo pezzo meraviglioso è Andromeda. Running for my own life now, I'm really turning some time, looking up to the sky for something I may never find. Stop. Invece che seguire una canzone sul non essere più interessate all'amore, non essere più interessate ad avere una relazione dove ognuno è come una galassia a sé e dove le priorità sono cambiate, magari dopo le delusioni e dopo le esperienze passate, perché ovviamente si parla molto d'amore nei dischi di Wise Blood, soprattutto il primo album il primo album ufficiale del 2011 faceva proprio riferimento alla fine dell'epoca dell'adolescenza, all'inizio dell'età adulta. Lei dice fondamentalmente questo disco, The Outside Room, parla della mia prima vera relazione andata molto male. E quindi in questa canzone si rivolge ad un crazy guy che la vuole convincere ad avere una relazione, ad innamorarsi, e dice guarda, insomma, ti sfido, vediamo se ce la fai a convincermi. Le cose fatte, insomma, nella seconda metà degli anni 2000 c'è anche un split EP con un altro duo, gli Angels in America, anzi no, siamo andati avanti negli anni, siamo già al 2011, sì è vero, perché abbiamo suonato un pezzo di Road Thrills, suo fratello, che era del 2010, si sa che noi andiamo rigorosamente in ordine cronologico, e in questo split EP lei aveva tre pezzi a sua firma e stiamo ascoltando giusto per far sentire quanto è matta. La fine di uno di questi tre pezzi, dal titolo Seven of Wands, dove appunto è tutta, tutta la sua voce registrata al contrario, cioè suonata al contrario. E l'abbiamo unito appunto ad uno dei pezzi del primo album, viene appunto considerato il primo album della sua discografia, di Outside Room del 2011, a firma Wise Blood and the Dark Juices, ovvero i musicisti che cominciavano un po' a rotazione a suonare con lei, e questo pezzo si chiama Storms That Breed, ha un po' di Kate Bush. Dalla sperimentazione, dal noise, dai suoni ambient, cominciano ad emergere queste sue canzoni folk così cupe, tinte anche un po' di elettronica, e inizia un'attività dal vivo molto intensa anche in Europa con il progetto sperimentale Axolotl, con cui ha anche pubblicato due pezzi dal titolo, una pubblicazione dal titolo Shamasi nel 2007. Axolotl, ovvero l'assolotto, la salamandra messicana dalla faccia simpatica, e progetto musicale di Carl Bauer di Brooklyn, allorché da Portland Natalie si trasferisce a Filadelfia, dove suona con lo pseudonimo di, ancora una cosa diversa, Wise Blood, tutto attaccato, accompagnata appunto da musicisti vari e variabili che appunto lei ha chiamato The Dark Juices, e appunto con questo titolo che esce, con questa firma che esce, The Outside Room, nonostante abbia registrato e suonato tutto da sola. E quindi un passaggio da quella prima cosa che abbiamo trovato del 2007, Strange Chalices of Sing, che era molto drone noise sperimentale, a questo suono caratterizzato molto dall'organo cupo, queste canzoni che diventano dei canti rituali sciamanici di streghe dei boschi, folk celtico, tinte medievali, con questa voce così imperiosa e profonda. C'è sempre un po' un alone magico di boschi scuri, e sono anche un po' i setting prediletti da lei nelle sue, nei suoi video, a volte anche, anzi spesso, molto surreali e comici. Poi dopo il 2011 un'attività live continua, nel 2012 partecipa con la sua voce ovviamente ad un pezzo di Mature Themes di RL Pink and the Haunted Graffiti dal titolo Early Birds of Babylon. davvero affascinante seguire il viaggio musicale di Natalie Mehring, ormai appunto arrivata a 15 anni di songwriting, e all'evoluzione che ha avuto arrivando appunto a fare un disco come Titanic Rising, di cui appunto parliamo in questa trasmissione, che ha ottenuto veramente un plauso universale su una ventina di recensioni, una media che supera il 9. Cambiamo decisamente sonorità. Con una canzone che è stata giudicata la miglior canzone degli anni 60, ovvero God Only Knows, Beach Boys, Pet Sounds 1966. You should ever leave me. Well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. L'abbiamo messa in trasmissione sia perché Titanic Rising è un pezzo che attinge non solo dai Beatles, ma appunto dai Beach Boys, da Scott Walker, pace all'anima sua, morto il 22 marzo. Io l'ho scoperto invece qualche giorno fa. E canzone sa stessa molto amata da Natalie, tanto che nel tour che sta facendo ora negli Stati Uniti in promozione al suo disco, nella scaletta c'è sempre la sua versione di God Only Knows. E questa è una versione che è stata registrata il 4 aprile all'Amazonic Lodge del Hollywood Forever Cemetery a Los Angeles. I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Mm-hmm. dicevamo, l'ispirazione dei grandi classici, dai Beatles alla scena di Laurel Canyon degli anni 70, Carole King, Karen Carpenter nella voce, e poi la grandiosità dei arrangiamenti orchestrali Titanic Rising, che appunto me lo fanno associare a Scott Walker. Volevo mettere assolutamente un pezzo di Scott Walker, però alla fine, per motivi di tempo, diciamo che in spirito aleggia lungo tutta questa trasmissione, e appunto molto simile ai pezzi un po' più allegri, insomma ritmati, dei Beach Boys, è anche il secondo pezzo che è stato diffuso il 12 febbraio con un video comico splatter, appunto fa riferimento ai film horror degli anni 80, particolarmente Venerdì 13, di cui Natalie è una grande fan, un video che ha diretto lei stessa, come ultimamente sta facendo, e è questa Everyday, che ricorda ancora i Beatles, diciamo, nella versione più Penny Lane, più marcetta allegra. Wake up baby, it's getting late now. Feel so bored like I always do. I'm so scared of being alone, it's true, it's true. I see you every day. But that's not enough. I got this secret, running along a lonely line, always trying to make my keeper mine. It gets me every time. Una canzone che veramente ti fa venire voglia di cantare e ballare per strada, tipo la sigla di Mary Tyler Moore, un telefilm che pare che nessuna delle persone a cui lo cito sembra conoscere. Una canzone che è, insomma, la più vivace di questo album, che parla appunto di questo atteggiamento, di questo stato d'animo che c'è nella nostra società contemporanea, con l'attività inarrestabile di dating attraverso le varie applicazioni, social media. Infatti lei canta I Need a Love Every Day, e che sottolinea appunto questo, la Attention Deficit Disorder, anche in questo. E appunto ci ha voluto associare un video in cui c'è tutta questa compagnia di amici nella baita, in montagna, eccetera eccetera, che appena, insomma, cominciano a formarsi le coppiette, arriva qualcuno che li fa a pezzi, quindi splatter, sangue, perché appunto è come se lei attribuisse una qualità un po' splatter a questo tipo di amore contemporaneo. Quindi voleva comunicare anche attraverso il video questa energia così, questo amore così caotico. E riguardo anche all'aspetto umoristico dei suoi video, c'è anche il video di un pezzo dell'album precedente in cui lei è tipo travestita con i baffi e un frac. Anche lei ama molto appunto l'umorismo, soprattutto un stile di umorismo surreale. E dice anche perché in fondo il mondo è surrealismo. E sempre appunto a sottolineare che c'è sempre un aspetto, insomma, inquietante nelle cose, c'è questa coda. Perché questo è un disco che ha visto tantissima sperimentazione, gioco e sperimentazione nei suoi 3 mesi di gestazione. Sonora Studios di Los Feliz a Los Angeles, insieme a Jonathan Rado, ovvero la metà non cantante dei Foxygen. E questo intro di organo sembrerebbe appunto un suono tipico di Wise Blood, per chi la conosce, e invece è un'altra nostra beniamina di sempre, ma insomma un amore rinverdito ultimamente, visto che una decina di giorni fa eravamo a Berlino per vederla nel suo tour europeo, questo primaverile che non ha toccato l'Italia, ma tornerà l'8 luglio a Soliera, o 7 luglio a Soliera, l'8 luglio a Sesto Unplugged, Sharon Van Etten. E abbiamo scelto questo pezzo, You Shadow, tratto dal bellissimo album uscito il 18 gennaio, Remind Me Tomorrow. Perché? Perché se devo fare un appunto al disco di Wise Blood è che ci sarebbe voluto forse un altro pezzo un po' allegro, un po' più allegro come Everyday, anche se io non sono nessuno per insegnarle come fare il suo lavoro, e poi anche perché questo pezzo insomma ha dei suoni un po' più retro, ma poi in realtà andando avanti con l'ascolto di Titanic Rising è veramente, a parte appunto il culmine del viaggio musicale e personale di Natalie Manning, ma un viaggio esso stesso all'interno, nel senso che il track listing, l'ordine dei pezzi all'interno del disco hanno comunque un senso che lei ha anche spiegato in un'intervista. Poi c'è un inizio di speranza e anche di allegria, di eccitazione, che culmina con Everyday. Poi magari l'atmosfera si scurisce un po', ma poi si finisce con una nota di speranza di nuovo, ma ne parleremo mano a mano che ascolteremo le tracce, e intanto continuiamo ad ascoltarci Sharonetta. Abbiamo detto che il co-produttore dell'album di Wise Blood è stato Jonathan Rado dei Foxygen, e stiamo ascoltando appunto i Foxygen. Questo è un pezzo nuovissimo, il primo singolo in anticipazione del loro album di imminente uscita. L'album si chiama Seeing Other People e questo pezzo si chiama Living a Lie. Ma continuiamo a parlare di Natalie Mehring e della sua esistenza abbastanza nomadica. Se ne scappa a Portland, poi va a Philadelphia e dopo appunto il primo album The Outside Room, la conoscenza e amicizia che poi appunto porterà altri frutti anche con Ariel Pink. Nel 2012 se ne va in Kentucky, quasi in isolamento totale, per imparare tecniche di erboristeria. Poi va anche nel New Mexico, che è il posto dove vorrebbe vivere, il posto preferito dove vivere. Poi si sposta a Baltimora e poi alla fine approda a New York. E dopo un disco prodotto in solitudine decide invece per il disco successivo, poi uscito per la Mexican Summer nel 2014 dal titolo The Innocence, decide di suonare con altri musicisti e per sei mesi lei e il batterista Jacob Bronner e il bassista James Strong, suoi amici, comunque amici da quando erano ragazzini, se ne vanno per sei mesi in una casa gelida nei boschi della Pennsylvania, o forse non nei boschi ma sicuramente gelida. E lei dice: finalmente era come l'high school band che non ho mai avuto, perché quando andavo a scuola, come abbiamo detto prima, nessuno voleva suonare con me, a meno che appunto non suonassi greencore o suonassi il basso nella loro band. E mi sa che ho sbagliato parlando di The Outside Room, perché invece parlavo di The Innocence quando dicevo del tema dell'amore, la fine dell'adolescenza e i primi vent'anni, l'amore giovane, per questo il titolo The Innocence. Un disco che parla appunto della prima relazione seria, della migliore estate, la più bella estate della mia vita, e di tutte queste idee che lei definisce giovanili, di come non puoi davvero preparare te stessa, prepararti alla maturità, non puoi crescere se non passi attraverso dolore e gli errori. E questo è un bellissimo pezzo, proprio folk celtico, che apre il disco. Dal titolo Land of Broken Dreams. When I walk, oh how I want to stand me tall. nei suoi interessi musicali, e lei le chiama appunto le signore della musica celtica, a cominciare da Enya, che ammira molto, e lei stessa ha definito quest'ultimo album, Titanic Rising, come l'incontro tra i Kinks e la Seconda Guerra Mondiale, o tra Bob Seger, cantautore americano, e Enya. Abbiamo voluto attaccare la fine di un altro pezzo di The Innocents, ovvero February Skies, i cieli di febbraio, che è un suono più madrigale, rinascimentale, non so. Torniamo a Titanic Rising. Drank a lot of coffee today. Got lost in the fray. I gave all I had for a time. Then by some strange design, I got a case of the empties. The ruler of my world. A lost, forgotten pearl. When fire leaves a something to believe. And at night I just lay down and cry. The waters don't really go by me. Give me something I can see. Something bigger and louder than the voices in me. Something to believe. E arriva questa slide guitar da sciogliere il cuore. Something to believe, dammi qualcosa che posso vedere, qualcosa di più grande, più forte delle voci dentro di me. L'espressione di uno dei temi dell'album, questa necessità dell'essere umano di credere in qualcosa, e appunto da bambini questo nostro sistema di credenze viene alimentato dall'industria dell'entertaining, dai film, e anche un po' da questa, molto da questa immagine poi falsata che è poi la vita romantica come comunicata dai film. Il desiderio di credere ai propri miti, crearsi dei miti in cui credere, e questo ci riporta all'artwork della copertina, ovvero una cameretta di adolescente sommersa sott'acqua. Una tipica camera d'adolescente con tutti i poster, le foto, le proprie passioni, il luogo sicuro in cui rifugiarsi e dove si rifugiava Natalie. davvero un pezzo meraviglioso. E dopo The Innocence nel 2015 arriva un EP dal titolo Cardamom Times, 4 pezzi credo, e questa è Maybe Love, Maybe Love. A sweet and glimmer in the light. I don't doubt in my mind that you know the deep down inside we have chemistry. I like seeing you notice me when I'm feeling better about you. Have maybe loved it in my bed. We are friends till the end, darling. My dear, my heartstrings bend. You'll be my friend. Come dicevamo prima in The Tiny Rising c'è appunto l'ordine dei pezzi che ovviamente ha un senso, quindi dopo un inizio comunque di speranza, sì, tante cose devono cambiare, che bello l'amore caotico, sì, abbiamo bisogno di credere in qualcosa, e lei stessa che appunto racconta così i suoi pezzi, la successione dei vari pezzi. Abbiamo bisogno di credere in qualcosa, c'è molta speranza in questa prima parte del disco. Perché il suo desiderio nel fare quest'album, dice, io voglio che sì, la gente pensa sulla realtà di quello che succede, dell'apocalisse che comunque sta arrivando, dei cambiamenti climatici, che appunto c'è questo parallelo tra il Titanic che si scontra contro un iceberg, e quasi appunto adesso The Titanic Rising, la vendetta dell'iceberg che sciogliendosi porterà l'estinzione l'umanità. Dice, ma voglio anche che la gente senta un senso di appartenenza, di speranza, di scopo. Voglio fare in modo che tutti sentano che meritano di essere vivi, perché in tempi recenti ho avuto degli amici molto stretti che non hanno sentito questo, e alcuni di loro si sono suicidati. E quindi voglio parlare a chiunque si senta un po' overwhelmed. Da tutta la massa dei problemi che accompagna il tempo presente. E spero che tu possa avere un sorriso durante l'apocalisse ed essere grato di qualsiasi condizione di vita tu comunque stia vivendo, anche la peggiore, perché comunque la vita è una cosa bellissima. Sopraffatto, overwhelmed. Cosa stiamo ascoltando? La voce di Natalie, ormai inconfondibile. Ma poi arriva questa musichetta, questo stile che è... è molto più stile Errol Pink, che infatti suona il basso in questo pezzo, ma non è un pezzo di Errol Pink, è una delle collaborazioni che arrivano nel 2016. È il progetto di Michael Collins, è lo suo pseudonimo drug dealer, spacciatore. È in questo pezzo dove suona il basso Errol Pink e dove partecipano diversi musicisti della band di Mac DeMarco. L'album si chiamava The End of Comedy e anche nella title track c'è la partecipazione della voce di Natalie, invece in questo pezzo Suddenly lei è anche coautrice. È l'anno del cosiddetto breakthrough, ovvero l'anno della svolta, l'anno in cui Natalie Merritt sfonda, Wise Blood sfonda almeno nell'ambito della musica indie alternativa, diventa una darling anche di Pitchfork, partecipa ai festival più importanti in Europa come il Primavera Sound, in seguito all'album del 2016 che si chiama Front Row Seat to Earth. Ma siccome abbiamo nominato membri, indirettamente membri della band di Mac DeMarco, che è un altro anche che ama insomma i suoni vecchi, e anche lui sta per sfornare un nuovo album, già sono stati diffusi un paio di pezzi, questo è quello più recente, All of Our Yesterdays, il disco uscirà il 10 maggio, si chiama Here Comes the Cowboy, è stata già annunciata una data al Magnolia di Milano, lo stesso giorno in cui Sharon suona a Sesto Unplugged. All of our yesterdays have gone now. All of our, ma sebbene io voglia molto bene a Mac DeMarco, all'inizio lo odiavo, poi però mi sono affezionata. Lo vorrei tenere in sottofondo per leggere dal comunicato della Sub Pop. Cosa dice appunto di Titanic Rising? La zona fantasma, l'upside down, il sottosopra, c'è una storia culturale molto ricca sull'esplorazione di questi luoghi di mezzo, in between places. E è quello che ha fatto anche Natalie Merritt con questo ultimo album, Titanic Rising, in cui ha disegnato, progettato il suo proprio universo per orientarsi tra i misteri della vita. Si muove attraverso un continuo spazio temporale nel quale lei svolge il ruolo della antropologa melodica, a volte malinconica, melodic, melancholic. Appunto riguardo alla similitudine del suo album, del suo riferimento a Enya, lei dice, si sente che non c'è un uomo, qualcuno che tira le fila, che comanda nello studio di Enya. All of our yesterdays have gone. E poi del suo disco dice: un album è come un cubo di Rubik. A volte hai tutte le dimensioni, i testi, la melodia, la produzione, e le devi insomma allineare, mettere insieme. Io cerco di essere futuristica e antica al tempo stesso, infatti si definisce una retrofuturista. Dice, il che è un'alchimia molto difficile e ci è voluto molto insomma per trovare insomma la soluzione giusta. E quest'album sì, può essere un concept album, ma è anche un esercizio di realismo, anche se ha sempre un aspetto magico. E arriva, diciamo, il punto di svolta appunto dell'album, che è un breve strumentale ambient che è stato paragonato a Brian Eno, William Basinski, e che era title track dell'album, è appunto l'espressione degli esperimenti fatti con Jonathan Rado nei Sonora Studios. Jonathan Rado è famoso anche per costruire queste loop machines, queste macchine, queste bobine dei 24 metri che occupano tutto lo studio. E questo è il suono prodotto da uno strumento che hanno cercato di ricreare, hanno cercato di creare Frippertronics, la Robert Fripp, però non ce l'hanno fatta e quindi l'hanno chiamato Radotronics. Due bobine che producevano i suoni più svariati. E questo è stato appunto in seguito alla sollecitazione da parte di Jonathan Rado di ritrovare l'inventrice, in modo che appunto che Natalie ritrovasse la sua vena creatrice di quando appunto adolescente creava degli strumenti nella sua cameretta. E è il punto di svolta che precede Movies, ultimo pezzo diffuso a marzo, prima dell'uscita del disco, accompagnato sempre da un video diretto da Natalie, dove ritorna lo spazio acquatico che rappresenta Subconscio. Subconscio su cui lavorano le immagini dei film che vediamo. È anche appunto una denuncia di come appunto vieni un po' ingannato, no? Sulla realtà, che poi scopri che non è come quella che ti viene raccontata nei film, soprattutto quella relativa all'amore romantico. E in questo video lei è sott'acqua come una starlet che viene guardata da un pubblico. Questa è la frase centrale. Alcune persone sentono quello che altre non sentono, alcune persone guardano finché non esplodono, il significato della vita però non brilla come quello schermo. I film che ho guardato quando ero piccola, le speranze e i sogni, non parlano però delle cose vere. Poi il pezzo ha una svolta. In questi archi così nervosi siamo appunto un momento di gravità, di serietà. E poi arrivano queste percussioni un po' alla Florence, un po' tamburi di guerra. E questo coretto sotto, un po' wachuariwari. E lei dice: voglio essere nel mio film, voglio essere la star del mio film. Lei dice che appunto da Titanic Rising, il breve pezzo strumentale, a Movies e i pezzi che arrivano dopo, lei dice: queste canzoni sono come le grotte, le caverne dell'umanità, dove si parla dell'impatto psicologico nel guardare troppi film, delle relazioni moderne, della sovrappopolazione e quindi dalla speranza iniziale, anche un po' euforica, si passa a un po' meno speranza. E dicevamo, la svolta del 2016, Front Row Seat to Earth, un posto in prima fila con vista sulla Terra. E abbiamo fatto un mix lunghetto. Please, babe. E questo è l'intro del primo pezzo di apertura del disco, Diary, che è stato anche il primo diffuso, cioè un video delle Urban Outfitters Session, molto prima dell'uscita del disco, ancora nel 2015. E è proprio quello che dice il titolo, è quest'album una canzone d'amore diretta al pianeta. E noi l'abbiamo conosciuta appunto alla classifica di fine anno di Pitchfork nel fine 2016 con questa meraviglia, Do You Need My Love? Che poi ha una coda un po' prog stranissima, appunto ce l'hanno fatto definire Oltra. FM, proprio quella stagione, era l'ottava stagione tra il dicembre del 2016 e il maggio 2017, abbiamo suonato tre volte Wise Blood con tre pezzi di questo bellissimo disco. Questa è la coda di Generation Y. Un pezzo che parla della incombente apocalisse che vediamo dagli schermi dei nostri telefoni. Lei dice: io ho resistito insomma agli smartphone fino a quando non sono arrivata a 24 anni e infatti ci sono rimasta sotto, ho cominciato a fare delle foto stupide e a mandare messaggi alle persone tutto il giorno, tutto il tempo, perché comunque siamo emotivamente predisposti al desiderio di connessione tra esseri umani. E poi la bellissimissimissima Seven Words, dove dice una frase molto bella e comica, ovvero: cioè, se io potessi cambiare quanto matta sono, se io potessi cambiare la mia follia, e appunto anche questo album From Rosie to Earth parlava dell'apocalisse, della fine del nostro pianeta, cataclisma del cambiamento climatico, che è molto reale e quindi ha un impatto reale sulla nostra capacità di sopravvivere sul pianeta, ma appunto la chiave è accettare con serenità tutto quello che capita, appunto anche le condizioni di vita più dure. Ho trovato un'intervista dell'epoca dell'uscita di questo disco che dice: all'inizio, quando ho iniziato a suonare, ero stata convinta da maschi bianchi patriarcali che l'autenticità era un certo livello di suono crudo, grezzo e di un'espressione poco sofisticata, ma poi ho capito che non è vero affatto. che l'autenticità non è qualcuno che è ignorante delle cose, e alla fine io ho accettato il fatto che io canto bene, magari in un modo old school, e che questo era altrettanto autentico perché viene dalla mia anima. È appunto una realizzazione della propria voce, della potenza della propria voce che ha acquisito e fatta propria grazie ad anni e anni di tour. E che appunto l'ha portata in questo disco ad avere una padronanza della produzione, grazie appunto all'esperienza affinata nei live. E per finire questo collage abbiamo messo appunto il pezzo finale, conclusivo. Dell'album, che è appunto un mix e che richiama il pezzo conclusivo anche di Titanic Rising, cioè in questo caso sono rumori d'ambiente, pezzi di dialoghi di film d'epoca e poi questa appunto ripetizione di un pezzo melodico di Do You Need My Love? E invece quello che stiamo ascoltando saranno due pezzi. È stata una grande sorpresa l'ultimo album omonimo di Chris Cohen. Perché Chris Cohen? Perché lui è stato il coproduttore di Front Row Seat to Earth. Californiano, cantautore, polistrumentista, ex membro, chitarrista dei D. Roth, poi ha suonato la chitarra e la batteria con gli Haunted Graffiti di Ariel Pink e dal 2012 ha fatto 3 dischi a suo nome, uno proprio nello stesso 2016 di From Rossi to Earth. E invece appunto quest'anno è uscito il suo album omonimo, sono due pezzi molto belli. Questo primo si chiama Song Day Play e sarà seguito da Air It Out. Appunto parlando del suo ruolo di coproduttore nel disco, Natalie dice che è una persona di cui si fida profondamente, tra l'altro suona anche in un paio di pezzi Titanic Rising. Bellissimo. E quindi l'esperienza live l'ha fatta acquisire una padronanza delle sue capacità, delle sue tecniche, sia di scrittura che di delivery vocale, e appunto considera sia stato un privilegio il fatto di potersi esibire per mesi e acquisire tutte queste esperienze che è culminata nella creazione e realizzazione del disco appunto con Chris Cohen. E Titanic Rising è ancora di più frutto della stessa circostanza, perché ha sempre continuato a suonare dal vivo e per raggiungere appunto una perfezione in studio e anche appunto un aumento dei mezzi. Per esempio non aveva mai incluso degli archi veri nel suo album come ha potuto fare adesso grazie alla Sub Pop. Che poi è bello che lei dice, sì, ci sono state diverse etichette che mi hanno corteggiato, ma volevano sentire dei demo. Cioè, io ho già fatto dei dischi, la mia musica dovrebbe parlare per sé, infatti la Sub Pop ovviamente non ha voluto nessun demo di quello che avrei fatto. Però, a differenza del disco precedente, Titanic Rising appunto ha avuto sempre un coproduttore, l'abbiamo detto, Jonathan Rado di Foxygen, ma con grande più complicità che si è sempre, insomma, la spronata ad inventare, si è sempre trovato d'accordo con lei, mentre lei dice a volte con Chris Cohen, a volte abbiamo fatto attestate. E quindi ancora più libertà di esplorare nuovi regni sonori. From Sea to Earth è bellissimo, però anche dei pezzi in cui per me è difficile entrare, a differenza di The Dying Rising. Alcuni pezzi rimangono distanti, forse poco coinvolgenti. Does anything really change? E questo è sempre Edit Out di Chris Cohen. Behind words, in defense, I rub my eyes in the mirror. You can hardly tell it all. As to maybe what they'd edit out, maybe nothing there at all. Maybe nothing there at all. Già questo inizio fa piangere, e poi no one's ever gonna give you a trophy for all the pain and the things you've been through. No one knows but you. E poi Natalie dice: nessuno ti darà mai un trofeo per tutto il dolore e le cose che hai passato, nessuno sa tranne te. E questo è l'inizio di Mirror Forever, sempre siamo tornati a Titanic Rising. Diciamo, a suo dire, questo è appunto uno dei pezzi della seconda metà del disco, che sono quelli, insomma, un po' più cupi e tristi. Arriva questa chitarra, anche questa abbastanza prog. You're a demon with a scary picture. I'm a dreamer and you're a tiger. Got a feeling our romance doesn't stand a chance. Stand a chance to last. You threw me out of the Garden of Eden. Lift me up just to let me fall apart. Can't stand being your second best. And I see. E tornando alla lettura del comunicato tra Sub Pop riguardo questo disco, è stato scritto e registrato durante la prima metà del 2018. The time is spent in this situation, circumstance. E lei dice, adesso lei di LA based musician, nel senso, si è stabilita adesso a Los Angeles. Io volevo belong, questo termine che usano tanto gli americani, sentirmi parte di qualcosa, insomma avere un mio posto, non sentirmi fuori posto. E ho capito che dovevo creare il mio destino, trovare la mia strada, crearmi la mia strada, perché nessuno l'avrebbe fatto per me. E questo è stato molto liberatorio, perché sono diventata un tipo una musicista, una Giovanna d'Arco musicista. Oh, baby, take a look in una cantante cresciuta. Oh, cantando in cori gospel e cori di madrigale, appunto musica rinascimentale che l'ha molto influenzata. Una musicista che poi ha iniziato a suonare la chitarra a 8 anni. E poi appunto si nominano i vari pezzi del disco, Something to Believe che abbiamo sentito prima. E lei dice appunto il credere in qualcosa è qualcosa di profondamente umano. Dei miti condivisi sono parte della nostra psicologia e sopravvivenza, mentre adesso abbiamo questo strano miscuglio di capitalismo e film e scienza. Ci sono stati momenti in cui mi sentivo veramente persa e appunto da bambina lei riempiva questo vuoto con il film Titanic, che dice è stato proprio creato per le ragazzine, aveva la sua propria mitologia. E appunto lei fa questo riferimento che questa lettura alternativa di una storia che parla della hubris umana. Che poi non so se è maschile o femminile, hubris umano o hubris umano, ovvero questa superbia, questa tracotanza, questo orgoglio. Appunto l'umanità che viene punita, infatti lei dice è simbolico che il Titanic, come ho detto prima, si scontra contro un iceberg, adesso l'iceberg si scioglie e porterà alla nostra distruzione. Dice oggi questa hubris si estende anche alla, a questo estremo affidamento e uso della tecnologia alle spese sia della felicità personale e che appunto il livello di attenzione che è calato drasticamente. Il pezzo che abbiamo sentito prima, forse appunto non ho neanche detto il titolo, Mirror Forever, è stato prodotto, l'unico pezzo prodotto non da Natalie e Jonathan Rado ma da Brian Daddario, ovvero uno dei due fratelli Daddario che hanno suonato in praticamente tutti i pezzi del disco. Meglio conosciuti come The Lemon Twigs. Brian e Michael Daddario, duo glam rock, baroque pop. Infatti Jonathan Rado aveva prodotto questo stesso disco che abbiamo ascoltato nel 2016, Do Hollywood, questa canzone è These Words, il pezzo praticamente è l'unico pezzo che noi conosciamo di questo gruppo perché l'abbiamo sentito tante volte ad una radio. Nella creazione del disco, oltre a questi suoni così appunto orchestrali che ha potuto esplorare Natalie Mehring, Jonathan e Natalie appunto si sono dedicati anche al loro primo amore, ovvero i suoni ambient, e a decostruire e ritornare, lei dice, al brodo primordiale del creare suoni. Poi appunto continuando con il comunicato della Sub Pop, il pezzo Movies, appunto, segna un'altra epifania legata appunto a Titanic, ovvero che film hanno fatto il lavaggio del cervello alle persone e alla loro idea di amore romantico. E questo ha portato Natalie a diventare un'esperta nel decostruire l'intimità, come appunto in Andromeda, che appunto lei dice, parla appunto del perdere interesse nel cercare di innamorarsi, perché appunto ognuno fa parte della propria galassia e sono delle entità separate. E che è una traccia che va a braccetto con quella successiva, ovvero Everyday, quello che appunto parla del caos del modern dating. E per chi non conoscesse questo delirio grazioso, parlando della discografia precedente, eravamo arrivati alla collaborazione con Drug Dealer nel 2016, poi ovviamente From Road Seat to Earth nel 2017. A gennaio esce Meets 002, ovvero un EP in collaborazione fatto insieme con Ariel Pink, ovvero Dumatti, e questo pezzo Tears on Fire e il video relativo ne sono la prova. E poi finiamo appunto il comunicato in cui lei dice: io esperisco la realtà ad un livello più lento, più ipnotico, e sono una tipo di scrittrice più contemplativa. Cioè, nella mia testa la mia musica si sente come me la sento proprio, me la immagino come una produzione, una gran produzione. Io non sono un artista, un nome grosso, però quando sono nello studio mi sento così, e quindi sto cercando di creare uno spazio più ampio per me stessa, e con Titanic Rising c'è riuscita sicuramente. Il 2017 è stato anche l'anno di No Shape di Perfume Genius, e c'era appunto questo duetto con Natalie Mehring, la bellissima Sides, che ovviamente noi suonammo nella puntata dedicata a Perfume Genius. Ovviamente era su quel disco, che cavolo dici? E il 2017 è stato anche l'anno appunto della partecipazione al Primavera Sound Festival in entrambe le versioni, con intervallo al Beaches Brew, dove il concerto di Waste Blood, chi è che c'era se lo ricorda, è stato investito proprio da una tempesta di pioggia, di vento, dove è volato via tutto, e tra un po' appunto anche lei con il suo completo brilluccicante celeste che porta anche nella copertina di From Road Seat to Earth. E poi appunto noi l'abbiamo vista a Porto, e alla fine del festival era l'ultimo giorno, completamente rincoglionite siamo sulla piattaforma aspettando il treno per Lisbona, e vediamo questo gruppo di sciamannati con delle case di strumenti vecchi, distrutti, proprio stagionati, e una ragazza, una donna vestita con un vestitino e un cappello a tesa larga, di occhiali da sole. Io ho detto: ma è lei, è davvero lei, è Natalie. Ovviamente faccia tosta, siamo andate a parlarle, ci ha detto che poi sarebbe tornata in Italia, come effettivamente è stato in apertura con di Father John Misty, poi in autunno. E solo dopo l'abbiamo risalutata quando siamo scese dal treno. Insomma, è stato un incontro molto particolare, perché insomma avevano tutti gli strumenti dietro con loro tranne il pianoforte, e soprattutto il chitarrista era vestito in shorts di pelle, una specie di giacca, tipo sembrava esattamente un Giovanni Battista, identico alla sera prima. Insomma, dopo l'EP con Ariel Pink, questa partecipazione all'album di Perfume Genius, a settembre arriva anche un 7 pollici dal titolo A Certain Kind of Everybody, ovvero lato A, A Certain Kind, ovvero cover The Soft Machine, gruppo inglese nato nel 66, pioniere del prog rock ad opera di David Allen e Robert Wyatt. Ma ecco che arriva la sua voce. Bellissima. Torniamo a Titanic Rising, siamo quasi alla fine, e alla fine anche insomma dell'insieme di pezzi un po' meno ottimisti, ovvero Wild Thyme. Parla della insomma distruzione del nostro pianeta, della sovrappopolazione. Ma non piangere, perché è un tempo incredibile per essere vivi. Beauty, a machine that's come abbiamo scritto, abbiamo detto, sono più di 15 giorni che ascoltiamo questo disco, è veramente, crea dipendenza, no, per noi. Come dicevamo, ho avuto un giudizio unanime da parte della critica, un 9,91 di media per Metascore. Due 10 da The Independent, che dice: Natalie Mehring accompagna le sue idiosincrasie musicali con melodie ricche, testi senza fronzoli, e poi c'è la sua voce calda e haunting, vero, inquietante, anche conturbante, controllata e sospesa. E poi un 10 anche da Mojo, che dice: Titanic Rising è una rivelazione, canzoni opulente e scultore che non hanno sacrificato nulla dell'idiosincrasia di Mehring o la sua capacità di unnerve, ovvero impressionare, inquietare. E poi The Line of Best Fit. Con un bel 9,5, che appunto passa in rassegna le canzoni dicendo: Lots Gonna Change. L'inizio sembra Varsava di Bowie, di Lowe, e poi Lennon, poi Andromeda, George Harrison, più Sharon Van Etten, poi Everyday e McCartney, e poi Movies e Radiohead, e poi Titanic Rising e Brian Eno e Basinski, poi Mirror Forever e Brian Eno e Robert Fripp. E quindi un po', insomma, il gioco dei paragoni musicali, che gioco forza sempre facciamo. Ma poi scrive: la gente saprà accettare una così grande influenza dei Beatles? D'altra parte è stata la più grande band della storia musicale. Tema Titanic, film conforto nei momenti disperati da piccola, che ora legge come segno dell'azione distruttiva umana, cioè punizione per l'ubris degli umani, la superbia, la tracotanza, la mancanza di umiltà. Poi critica appunto a affidarsi eccessivamente alla tecnologia, la nostra soglia d'attenzione in continuo calo. E poi, per quanto riguarda tutte queste influenze musicali, dice: sì, appunto, la musica che amiamo ci influenza profondamente, ma Natalie Mehring ci stampa sopra la sua identità facendo di Titanic Rising una cosa nuova. Come migliori autori e musicisti, Natalie Mehring si è tuffata nel profondo della sua immaginazione e ne è emersa, portando alla superficie un capolavoro. E c'è appunto questa immagine della cameretta sommersa, questo set che hanno creato insieme a Brett Stanley in una piscina di Long Beach. Appunto hanno creato questa cameretta, è andata a cercare tutti i vari pezzi di arredamento, ha scelto i poster, ha stampato le foto, c'è ancora un poster di suo padre. E tempo 2 ore, perché poi appunto tutto si è imbarcato di acqua e si è distrutto, appunto come una metafora del subconscio, dell'altare che tutti i ragazzini nella cultura occidentale si creano, con appunto i loro miti nella loro cameretta, questa specie di altare di tutto ciò che adorano nel loro spazio sacro, che è appunto solo loro, la loro cameretta. Cameretta come archetipo. E dice: ma considero appunto, però appunto sciocca questa cosa, che la nostra cultura moderna fa sì che quello che noi idolatriamo nei nostri spazi sacri sono basati sui media, sui film, perché non abbiamo molto altro in termini di miti. E quindi questa cameretta immersa nell'acqua come un luogo simbolico, un luogo interiore, sacro. E dicevamo del 7 pollici del settembre 2017, che conteneva appunto A Certain Kind, la cover di The Soft Machine, che stiamo ascoltando in questo momento. Oh, time. E che secondo lato B c'era la famosissima Everybody's Talking, classico portato a successo nel 69 da Harry Nilsson, grazie anche alla colonna sonora di Midnight Cowboy, sebbene fosse stata scritta nel 66 e pubblicata da Fred Neil. E la versione di Wise Blood, ovviamente, Everybody's Talking, è molto più lenta, ipnotica, non c'è la chitarra. Questa è Certain Kind, veramente bella. Abbiamo dovuto tagliare un po' perché dopo c'è tutta una coda molto lunga. Sempre riguardo allo spazio sacro ricreato dalla copertina, stiamo leggendo da un'intervista a Stereogam dove si dice: credo che tutti gli esseri umani hanno appunto una propensione a credere nelle cose e ad avere speranza, e soprattutto da bambino hai un sacco di speranza e credi a un sacco di cose, e la tua cameretta è il tuo luogo sicuro, un luogo, anche il luogo dell'immaginazione. Infatti anche per me è stato il posto in cui io ho sviluppato tutta la mia cosmologia, tutto il mio sistema di credenze, e dove ho anche realizzato e capito cosa avrei fatto nella vita. Dice però è anche una cosa molto interessante il fatto della crescita, perché tu è come se fosse la tua incubatrice, no? Questa strana zona adolescenziale da cui poi esci e vieni considerato un adulto, quando appunto in realtà non sei molto preparato ad esserlo. E questo spazio subacqueo in cui lei è viva, è protetta, è coccolata, anche se appunto lei non ha mai avuto una cameretta in quello stile. E come modello ha preso appunto camerette degli anni 90. E c'è stato anche questo, diciamo, questo gioco, ha postato su Instagram la copertina di Osier, anche lui appunto seduto su una poltrona, un tavolino sott'acqua, e ha stupito molto la coincidenza. Se si parla di chamber pop e baroque pop, non può mancare Rufus Wainwright. Perché? Perché in realtà il pezzo che ascolteremo dopo, proprio per passaggi melodici, mi hanno ricordato molto molto nello specifico una canzone di Rufus. Sono stata a cercare cosa ha più fatto Rufus da dopo che ci siamo conosciute a Berlino, che ho visto col marito, con la figlia, con la sorella Marta. Cosa ha fatto? Ha fatto questo pezzo, The Sword of Damocles, la spada di Damocle. È stato pubblicato nell'ottobre 2018 come un invito a votare nelle elezioni di midterm, ovviamente contro Trump, ripetendo appunto il mito della storia di Damocle e del tiranno di Siracusa, che si scambiano i posti, perché appunto Damocle diceva: ah, che figata che sei un re. Lui dice: sì, facciamo a cambio, essere re significa essere in costante pericolo, e per cui gli aveva messo appunto questa spada che incombeva sulla testa, legata solo con un crine di cavallo. E il video è anche molto molto carino. Ma noi stiamo parlando di Wise Blood. E l'intervista continua appunto dicendo che anche il video per Movies c'è lei sott'acqua. Dove appunto il regno del subconscio in questo caso è sono i film, è il cinema. Tutti quei contenuti, quelle immagini che noi processiamo nella nostra testa più di quanto qualsiasi essere umano abbia fatto nelle epoche precedenti. E volevo appunto essere, avere questo ruolo di questa starlet sott'acqua che si guarda allo specchio e quindi appunto un modo di esprimere la mia idea quasi in un modo linciano per comunicare secondo me appunto i film in realtà sono solo delle cupe manipolazioni psicologiche. Ma invece tornando alle recensioni di AV Club 9.1, ci sono decenni che la musica indie ha coccolato il suono orchestrale, ma né il twip hop di Belle and Sebastian né l'epicità di Arcade Fire possono essere paragonati a Titanic Rising. Si può paragonare a Carole King, alla scena musicale di Laurel Canyon dei primi anni 70, ma sarebbe comunque inadeguato per descrivere questo tuffo nella foresta subacquea della mente di Natalie Mehring, dove la parola chiave è stratificato. Questo album, un album cinematico, una produzione opulenta di Jonathan Rado, e la recensione finisce dicendo: se l'ascolti in cuffia è come essere avvolti nel suono, isolati dal mondo esterno. Io dico sì, in effetti è questo quello che fanno le cuffie, come essere un astronauta che guarda la Terra attraverso strati di atmosfera. E poi c'era un'intervista di AV Club dove si dice appunto della partecipazione dei fratelli D'Addario, del processo di registrazione e dell'ultimo pezzo conclusivo che ascolteremo tra poco, Nearer to Thee, che è un breve pezzo strumentale che fa riferimento a quello che si dice sia stato l'inno religioso suonato dall'orchestrina mentre il Titanic colava a picco. The sword of Damocles. Però un finale del disco che arriverà tra poco, che è un ritorno invece alla speranza. E finisce Sword of Damocles di Rufus Wainwright e arriviamo appunto a questa ballata Picture Me Better to the stars and moon for you and it's coming back soon. Need no money when you're around and you're making me act funny. Can't help to smile with those eyes. Finalmente ho trovato il tempo di scriverti questa lettera. È un pezzo che all'inizio, quando è nato, non aveva un destinatario, ma poi è diventato Sam, appunto uno dei suoi amici che si è suicidato. E poi Pass Magazine 9.1, discografia di Westblood, un viaggio man mano che procede, la meta diventa più chiara, psych folk sperimentale, poi pop tradizionale senza perdere stranezze e peculiarità, una ripcord 9, meno esoterica e più piantata a terra, più vicina al classico songwriting degli anni 70, deliberatamente anacronistico e quindi per questo fresco e moderno. Poi Glad Magazine 9, Variety 9, All Music 9, chiarezza, sicurezza, controllo del flusso emotivo senza frettolosità. E poi Uncut 9, The 405, 8 e mezzo, ascolto ambizioso, vario, gratificante, musica pop per epoche, aeree e mondi molto oltre il nostro. Originalità espressa grazie all'assemblamento di l'assemblaggio di melodie pop senza tempo e senza pari che risuonano in noi, creando così un ibrido con una produzione ultramoderna e generi che vanno dal chamber pop, baroque pop al synth pop. Poi Pitchfork 8 e mezzo, Under the Radar 8 e mezzo, sintesi perfettamente equilibrata tra il vecchio e familiare e il nuovo ed inesplorato. E poi una decina di 8 e di DY Mag che dice: un viaggio estremamente elegante verso un luogo e un tempo diversi, equamente delicato e potente. Exclaim che dice: pur prendendo ispirazione dal passato, è uno sguardo limpido sull'amore, sulle catastrofi e sulla speranza, uno sguardo però perfetto per il tempo presente. È stato aggiunto all'ultimo momento questo pezzo strumentale Nearer to Thee, che però riprende gli archi di A Lot's Gonna Change, una cosa che lei ha voluto mettere alla fine. Bellissima conclusione di questo bellissimo disco. Ciao da Claudia Mighty Mouse.